Friuli nel mondo, 263esima trasmissione dedicata agli emigrati. I 25 anni del coro Legris Furlans di Feletto Umberto. In occasione del 25esimo anno di fondazione, il gruppo corale Legris Furlans, creato e diretto dal maestro Armando Del Fabbro, è stato calorosamente festeggiato nel corso di una cerimonia organizzata dalla Biblioteca Civica di Tavagnacco in collaborazione con l'amministrazione comunale. La manifestazione di simpatia e di spontaneo entusiasmo verso i coristi, taluno ora alquanto anziano, ha registrato accenti di commozione allorché è stato loro espresso il ringraziamento del Friuli per il contributo dato dal complesso felettano alla divulgazione del canto friulano. Il sindaco di Tavagnacco, nel consegnare un sigillo d'argento del comune a ciascun componente, ha ricordato le tappe lusinghiere raggiunte dal coro fino ai successi di Arezzo ed ha sottolineato altresì il caparbio esempio di volontà e di generosità che sempre ha caratterizzato i Legris Furlans, che hanno il canto nel sangue e l'allegria nel cuore. Si può affermare così, cari emigrati. Con la trasmissione di alcune loro esecuzioni intendiamo anche noi esprimere la riconoscenza di Friuli nel mondo ai Legris Furlans per l'apporto da essi dato a questa rubrica fin dal suo inizio e vi presentiamo subito quattro motivi popolari di sicuro vostro gradimento: il don de viole, e memari maladite, al chiante il dial, ioi cebuere. Tal seguire, consolami, consolami. E ho partito, ma non seguire, consolami, non farla io c'è buona, c'è gran buona, che si sita così no. Ben soline sono plente, non c'è ben, non si può star. Ben soline sono plente, non c'è ben, non si può star. Del compositore e maestro Toso, ascoltate adesso questo invito a lasciar da parte preoccupazioni e pensieri per abbandonarsi ad un'ora di allegria. Fai si doglie! Eccovi ora un altro motivo popolare notissimo, Se io ves di Maridami. Di Maridami non c'agliam, non c'ho una red. Se io ves di Maridami non c'agliam, non c'ho una red. No, sassa mi metta un c'agliam, non c'ho una red. Con chi qua? Tricar guadagne, non mantè, non c'è un polè. Con chi qua tricar guadagne, non mantè, non c'è un polè. No, sassa mineta, non mantè, non c'è un polè. Tutti il dì abbati suoi, san c'è me, mi batare. Dovete sapere, cari emigrati, che del complesso L'Aigris Furlans fa parte anche un tipico trio musicale composto da armonica, clarino e contrabbasso. Trio che chiuderà questa trasmissione con la Staiere numero 3 del maestro Conti. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.